nelle parti, diciamo così, istituzionali, dove appunto c'è il Fondo Monetario e la Commissione, la missione della Commissione Europea, che stanno appunto valutando, e lo faranno entro 15 giorni, le modalità tecniche perché poi Atene possa chiedere l'aiuto, ha un atteggiamento assolutamente tranquillo e di fiducia, cioè la situazione istituzionale è che la Grecia appunto fronteggerà la situazione ed è pronta appunto a dare tutte le risposte, però non scoprono le carte fino a quando le due missioni del Fondo e dell'Unione Europea non avranno appunto prima posto sul tavolo cosa effettivamente Washington e Bruxelles chiede ad Atene in termini di riforme strutturali, che sono quelle che proprio preoccupano più il governo, perché appunto sono quelle che scatenerebbero e stanno già scatenando la protesta popolare. La data clou della scadenza del debito greco è quella del 19 maggio, lì scadono 10 miliardi di euro tra rifinanziamenti e cedole da pagare. Il problema è che questo però, anche per secondo gli osservatori, non è sufficiente, cioè ormai il problema è che anche se ci fosse questo prima tranche, poi appunto i 40-45 miliardi, il vero problema è che la Grecia ha bisogno di riforme delle pensioni, riforme appunto per incrementare la produttività, perché è qui il vero problema, cioè la Grecia non corre allo stesso livello degli altri paesi ed è per questo che tutta l'economia è in qualche modo ne risente, ed ecco perché gli spread dei bond greci sono proprio il termometro di questa mancanza di competitività. Per rifare questo occorrono però delle riforme che sono impopolari. Allora la maggioranza delle persone, la classe media, si è resa conto che questo bisogna farlo, che le riforme sono necessarie, e infatti tutti parlano più dell'autunno, quando sarà ancora più dura, passata diciamo il momento estivo, che qui è visto sempre come un momento economicamente più florido, perché ci sono le entrate appunto determinate dalle rimesse turistiche. Lì sarà veramente il gioco più difficile.